Siamo in collegamento con Maura Teofili per parlare di anni luce per Roma Europa dal 3 all'8 di ottobre alla Pelanda, al Macro Testaccio qui a Roma. Intanto Maura, benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie mille. Ci spieghi un po' di questa iniziativa? Allora, innanzitutto mi fa piacere essere qui per ricordare che Anni Luce è un po' una ripresa di un interesse storico del festival, quello per le compagnie emergenti, sì, per le nuove formazioni che anche all'interno del territorio nazionale esplorano linguaggi scenici, drammaturgici, il più possibile all'avanguardia. Quindi finalmente dopo qualche tempo si può riaprire una rassegna dedicata proprio a questo genere di compagnie, singoli artisti, e aprire al pubblico quattro lavori chiaramente molto attentamente selezionati, con il desiderio di riaprire un po' a un fattore di rischio. Sono compagnie molto giovani ma già artisticamente mature che andremo a vedere insieme da questa sera a domenica. Senti, come si è svolta questa scelta artistica? Guarda, per questa prima edizione la collaborazione con Carrozzeria Notte, che è lo spazio che dirigo insieme a Francesco Montagna, è stata strettissima. Sì. Io collaboro con il festival a livello personale da molto tempo, ma questa esigenza di riesplorare le generazioni italiane è sorta quest'anno, quindi c'è stato un contatto diretto e la necessità di selezionare degli artisti in tempi relativamente brevi. Quindi sono, diciamo, i migliori artisti che sono passati per non tanto il palco di Carrozzerie quanto i rapporti, le relazioni, lo scouting che abbiamo messo in piedi in questi quattro anni di attività. Chiaramente la rassegna si propone dalla prossima edizione di fare anche molto di più, quindi di allargare tantissimo il campo di azione e di ricerca e di esplorare a livello nazionale. Chiaramente questi quattro artisti per il momento insistono parecchio sul territorio romano, anche se non sono propriamente tutti quanti romani, sono comunque artisti che hanno già avuto modo di passare di qua, sì, mentre per il futuro andremo a cercare ancora più lontano. Senti, ecco, proprio per parlare adesso brevemente del più lontano, cosa si sta muovendo a tuo giudizio a livello nazionale rispetto al giovane teatro? È molto complessa la situazione delle compagnie emergenti, sinceramente, in questa fase storica, direi, del meccanismo e del sistema di finanziamento del teatro, perché chiaramente oltre alle esigenze espressive che sono di precipuo dominio delle compagnie, vengono delegate alle formazioni anche tantissime esigenze di tipo produttivo, di finanziamento, di ricerca di fondi per sostenere le produzioni fino in fondo. Quindi è un ottimo momento per vedere compagnie in grado di ottimizzare proprio l'intersezione fra le due nature del teatro, quella più specificatamente artistica ed espressiva e poi quella più pratica di portare a realizzazione sulla scena l'idea. Sì. È un sapere che si sta affinando moltissimo e che fotografa, secondo me, anche il contemporaneo in senso molto più ampio, perché è un momento storico in cui questo ha a che fare con tutti i campi dell'azione e del sapere, quindi anche con il teatro. Sì, sì, sì. Senti, ci spieghi un po' come sarà questa rassegna dal 3 all'8, i luoghi, gli orari, un po' tutto? Molto volentieri. Cominciamo questa sera con due debutti, Azzurra De Gregorio, che presenta Madre. Il lavoro non è nuovo ma è alla prima romana, è stato completamente riallestito. Azzurra è un'artista del Molise che collabora invece con una serie di artisti che vengono da diverse provenienze sul territorio nazionale, è un lavoro visivo molto forte. La replica è una sola, questa sera alle ore 20. Poi c'è Industria Indipendente che presenta invece Lucifer, un lavoro che vede in scena Pier Giuseppe Di Tanno e Lady Maru, che ricerca un po' le origini della figura di Lucifero. È un lavoro che ha anche dovuto richiedere una replica straordinaria perché ha avuto una grande curiosità da parte del pubblico, insomma, riscosso. E stasera alle ore 21:30, domani alle 21 e poi in replica straordinaria il 5 alle 22. Bene. Il 5 e 6 invece Giuliano Scarpinato presenta in prima assoluta il suo nuovo lavoro, Se non sporca il mio pavimento un melò, che è ispirato a un fatto di cronaca, l'omicidio di Gloria Rosbach, e lo mette in relazione con un piano invece più astratto, ispirato alla mitologia, e quindi che presenta un po' sia un aspetto narrativo e drammaturgico molto solido, che anche un piano estetico molto particolare. Il 5 è alle ore 20, il 6 alle ore 21, mentre chiude la rassegna Dante Antonelli con il collettivo Schlab il 7 e 8, con la presentazione integrale della trilogia ispirata a Werner Schwab, l'autore austriaco sul quale il collettivo si è sperimentato in questi ultimi anni. Lo spettacolo ha la durata di 3 ore, perché presenta in sequenza tutti e 3 i drammi sociali di Schwab, con una pausa in mezzo per il pubblico, sabato alle ore 20 e domenica alle ore 17. Perfetto. Allora, ci lasci anche i riferimenti web per la programmazione? Allora, vabbè, trovate tutte quante le informazioni naturalmente sul sito di Roma Europa, e all'interno della programmazione del festival c'è un'etichetta dedicata ad Anni Luce, con cui viene in evidenza tutta la programmazione della rassegna. Per le prenotazioni e gli acquisti di biglietteria, al momento ci sono posti disponibili soltanto per uno spettacolo, ma trovate sia il numero di telefono della biglietteria 06 4555 3050, a disposizione per eventuali liste d'attesa, informazioni, biglietti che vengano disdetti all'ultimo, oppure l'acquisto può essere effettuato online direttamente dal sito. Benissimo. Allora, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Crepi tantissimo, soprattutto per gli artisti, ai quali mando anche io il mio personale in bocca al lupo, anche approfittando di questa conversazione radiofonica, insomma. Bene, un abbraccio, Maura, a presto. A voi, grazie mille.